quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché